segreti della casa una porta nera da cui fuggirai all'alba della sera, scivolando tra i vapori argento sulla scia, come un bianco cigno volerai via. Sogno nel cotone, angelo sirena, vestirai tu la tua luna piena. E per una notte soltanto, il cielo tingerà di bianco. E per una notte soltanto, tu sarai un cigno bianco. L'inchiostro della notte il sogno scriverà sulle tue ali libertà, Cenerentola al risveglio il giorno chiamerà nella tirannia della realtà. Fuga sopra il lago, volo di falena, spoglierai tu la tua luna piena. E per una notte soltanto, il cielo tingerà di bianco. E per una notte soltanto, tu sarai un cigno bianco. E per una notte soltanto, tu sarai il cigno bianco.